Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, è tornato con noi un fuoriclasse, Sasha Georgievic. Ciao, grazie. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Per il resto la squadra è sempre la stessa, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, ciao Sasha, buongiorno a tutti. Ciao Flavio. Voce del basket, non più solo NBA, di Sport Italia e anche la nostra, Dan Peterson, ciao coach. Ciao amici sportivi, Sasha, coach. Ti seguo adesso Sasha, ti vedo ogni giorno ormai. Coach, ti seguo io faccio i tuoi passi. Ah, vi vedete, questo non lo sapevo. Ecco. Senti coach, una conferenza stampa come quella di Maradona tu non hai mai fatta però, No, e qui stiamo pagando in autostrada, qui questo è il rumore che si... No, sentite che lui è veramente quello che ha detto lui. No, io sono stato abbastanza composto. Io davo le squalifiche ai tempi, se un giornalista scriveva una cosa che non mi andava, io davo la squalifica, poi dovevo smettere perché diventava un punto di onore con i giornalisti, quindi è impossibile gestire, ma le critiche fanno anche parte del lavoro, un allenatore deve sapere accettarle. Sì, poi c'è anche Lippi e il gruppo, secondo me Marcello Lippi non ha fatto male. Poi parliamo di basket naturalmente, però volevo la tua opinione su questo. Anche Lippi poteva benissimo risparmiarsi questo, però capisco anche un po' Lippi che ha detto volevo tutelare la squadra, e un lavoro del coach spesso è di prendere le frecce nel proprio petto, e Lippi ovviamente ne ha preso tanti, quindi ha fatto la sua parte. Senti, sei pronto per l'NBA, per l'Eurolega? Si comincia? Assolutamente, ieri abbiamo fatto io e Niccolò Trigari la opening game, si chiama Maccabi Tel Aviv in casa contro Olimpia Lubiana, che aveva fra l'altro un Georgievic in squadra, vero. Dalla Serbia. Non siete parenti, è un nome comunissimo ovviamente. È un terzo cognome più comune dalle mie parti comunque. Ecco, e quindi però Olimpia Lubiana ha giocato malissimo, troppi palleggi, pochi passaggi, Maccabi Tel Aviv non benissimo, non la solita squadra Maccabi del passato, ma con Gershon in panchina, grande allenatore, poi ex compagno di Sasha, Juris Dost, che allenava ieri sera ovviamente all'Olimpia Lubiana, lui ha molto lavoro da fare. Lui ha chiesto un mese di tempo, dice la partita è venuta troppo presto per loro, e ci credo dopo aver visto il risultato. Però da questa settimana che viene qua ovviamente Sport Italia full immersion Eurolega. Sasha, vi seguiamo. Abbiamo visto la partita ieri, ci siamo divertiti con Trigger, ti devo dire una cosa. mi diverto sempre. Comunque vedo già una bella impronta di Jurij Dobc, perché ho seguito tutto l'Europeo, ho visto la Slovenia che giocava veramente bene, gli sono mancati due giocatori e penso che anche adesso abbia un paio di giocatori infortunati, soprattutto Ilievski, che potrebbe essere la chiave in quella squadra, no? Con sua esperienza, velocità, controllo e tutto. Sì. E quindi vedo già un bel gioco. Mi piace come sta allenando Jurij Dobc, come sta composto in panchina, come si comporta, come trasmette la tranquillità alla squadra. È un grande carissimo amico e veramente sono contento per lui. Un grande europeo, ha portato la Slovenia là dove non era mai arrivato. E Slovenia ha perso una grandissima occasione. Sì, una grandissima anche. Hanno giocato molto molto bene, secondo me si meritavano la finale, solo che in semifinale, sai, incontrando la Serbia con questi giovani, stessa generazione nostri, che abbiamo vinto tutte queste medaglie, quattro medaglie di giovanili, no? Under 20, europeo, mondiale, tutto, e Ivkovic ha fatto una grandissima cosa mettendoli tutti insieme, dandogli un ruolo a ciascuno di loro. Jakovic scoppiato, non avendo Dragic come cambio, fino a semifinale tirava la caretta, ma lì ha giocato male. Però anche lì un errore da un giocatore che è andato a aiutare, non so se avete visto la partita su più 3 Slovenia, 5 secondi alla fine, vai a raddoppiare sotto canestro e lasci il tiratore serbo da tirare da 3, cioè non si fa, perché poi, serbo la mette dentro. Poi ne parliamo con calma della tua Serbia, perché ci sono diversi discorsi da fare su questa squadra che praticamente è quasi un under 21, no? 22.7 di età media per questa squadra che è tornata a dominare l'Europa. Io aspetto anche gli ascoltatori naturalmente, 800 24 00 24. Coach, per parlare ancora di Eurolega, Panathinaikos super favorito, io credo, il Cesca che ha perso Ettore Messina, il Real Madrid che ha guadagnato Ettore Messina, ma secondo me non è ancora una squadra da Eurolega, da vittoria finale. Yeah, se ci fosse Ettore Messina ancora a CSKA con tutti i giocatori, David Anderson e compagnia, allora si va in finale di nuovo per la milionesima volta CSKA e Panathinaikos. Senza Messina io vedo un piccolo calo di CSKA, anche se possono fare il Final Four. A Real Madrid Ettore farà un grande lavoro, ma visto il loro contributo a Jazz magari non è una prova attendibile. Non ancora la squadra di Ettore Messina, si vede già che in un mese di tempo li ha messo a giocare alla Messina, ma non del tutto, cioè non ha completato il lavoro ancora, ma ha dei buoni elementi. E lui è uno che ha una grande lettura, molto pratico. Ettore, ok, non mi serve questo giocatore qui, mi serve quest'altro qua, e mettere i uomini giusti nei posti giusti nel momento giusto. Questa è la sua grande la grande abilità. Lui e Obradovic sono ovviamente di grandi misure i due allenatori più forti d'Europa, e metterei al terzo posto Sergio Scariolo per il lavoro che ha fatto con la Spagna. Sono assolutamente d'accordo con lui e congratulazioni a un grande amico Sergio, con quale ho parlato subito il giorno dopo la finale, congratulandomi con lui con dispiacere perché la Serbia ha perso. Vorrei aggiungere una cosa su Messina. Spagna, campionato spagnolo, maniera di giocare lì, le squadre spagnole corrono molto, molta transizione, molto contropiede, molto gioco molto bello, campo aperto, dai tempi di Brabe e Iturriaga, ti ricordi te di me, Llorente, tutti quei non so, Jordi Villacampa, tutti questi, come se giocassimo nella costa oeste di Stati Uniti. Grandissima transizione. Ho letto un'intervista di Zizis dove diceva che Ettore, una cosa che non è tanto amante della questa transizione, che lui si è reso conto nel 2 anni con lui, quindi anche un piccolo adattamento sicuramente Ettore lo farà in quella parte lì, perché i giocatori con fisico ce l'ha, soprattutto un Kaukenas che nei miglior momento della sua carriera, un Kaukenas che strameritatamente gli hanno appeso la maglietta sul tetto del Palazzo di Siena, è uno dei migliori sesti uomini da sempre per me in questo, in questo momento. È veramente molto interessante questo, Sasha, perché Ettore dovrà fare un adeguamento a questa. Lui è veramente pratico e lo farà forse con un po' di fatica. Ho detto che ho visto qualche impronta di Messina, ma non completato il lavoro ancora. Senti coach, per quanto riguarda le nostre squadre, è chiaro che noi ci aspettiamo chiaramente da tifosi italiani che la Montepaschi Siena, visto che ha allungato di un anno un progetto triennale, possa finalmente arrivare a queste agognate Final Four che ha assaggiato un anno solo. Tu pensi sia in grado con quello che è stato, quello che è stata la campagna acquisti, diciamo? Io poi forse sto sognando questo qui quando lo dico, però perché voglio vedere una squadra italiana, anche per noi di Sport Italia, andare avanti il più possibile. Vedo loro con questo sempre ritorno, c'è sempre Stone, sempre McIntyre, sempre Sato, sempre Eze, sempre, cioè tenuto il nucleo, tenuto l'allenatore, un pochettino come CSKA con Messina, con Smodis, con Anderson, cioè con questi giocatori che hanno sempre un po' di continuità, non stanno ricominciando con anno zero sempre, ok? E questa è la forza di Siena anche nel campionato italiano. Sì, io vedo loro molto ben attrezzati e con le esperienze che hanno fatto, io penso che loro possono anche fare veramente un'ottima Eurolega. Devono avere fortuna, non possono trovarsi davanti Panathinaikos nei quarti finali come quest'anno. Sì, e poi io dico un'altra cosa, aggiungo un'altra cosa. Importante quanto entusiasmo trasmettono i nuovi, perché è ovvio dopo 4 anni certo, che è tutto uguale, tutto sempre, si vince sempre in campionato italiano, vinciamo ancora lo scudetto, tutti ci danno qua, quindi l'unica cosa che gli rimane è l'Eurolega, e lì è il compito di nuovi arrivati, soprattutto magari anche un Lavrinovic che è più fresco di tutti quei, diciamo, Lord di Siena, no? Sì. Di quanto entusiasmo questo giocatore Hawkins trasmette ai vari McIntyre e Stonerook. Sicuramente se Siena si innamora in un giocatore come lui, se lui ripete, non so, il suo secondo anno di Roma, magari nel punto di vista personale, gli darà una grandissima, grandissima spinta verso il traguardo. Io Siena a Madrid nel Final Four, anzi quell'anno già a novembre, e quello lo possono dire tanti miei amici, dicevo già a novembre Siena vinceva la Final Four, vinceva l'Eurolega, tutti mi davano del pazzo, era 2 anni fa. Me ricordo, l'hai detto? Ecco, perché era proprio il gioco, era proprio la cosa, era proprio l'entusiasmo, si vedeva tutto. Poi mi ha ingannato Kaukenas che si è rotto e non c'ho. Poi ha sbagliato un tempo col Maccabi perché era comunque quasi in finale dopo quel primo tempo lì. Insomma, più, sai, più lì 18. La Coppa è così. Sì, ma lì anche un po' hanno. Tutto l'anno hanno giocato con due lunghi, lì in quella partita hanno provato a non mettere Res dentro come quarto lungo, avendo Stonruk con quattro falli, e lì sono entrati con quattro piccoli dove non gioca tutto l'anno, secondo me hanno giocato chissà 5 minuti quando... Perso un po' di certezze. Un po' di automatismi sicuro. Grazie coach, ci sentiamo venerdì prossimo noi. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao ragazzi, alla prossima. Buon lavoro coach Dan Peterson. Palla spicchi. Ecco che torniamo. Drago da Brescia, 800240024, numero verde. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, dica. Un saluto a tutti a studio e un saluto particolare al mio connazionale serbo Sasha. Ciao. Sono Dragan da Kragujevac. Ciao Dragan. Niente, Sale, ti parlo in italiano. Okay. Su quale panchina ti possiamo vedere il prossimo anno? Sì. Un'altra domanda, la nostra nazionale serba come la vedi in futuro e può migliorare con i nostri giovani, anche se ero deluso con la Spagna che abbiamo giocato una partita, era meglio di non arrivare in finale con quella partita in finale No. Prima risposta sulla panchina di Parco Sempione, seconda risposta la nostra nazionale c'ha una enorme, chissà magari anche la più grossa opportunità di mettere un seglio su tutta l'epoca della pallacanestro europea, anche mondiale, dal punto di vista dei nazionali. Perché? Perché la Spagna è arrivata, ha fatto il suo ciclo di 5-6 anni dominando la pallacanestro anche mondiale. Anno prossimo già chissà se ci sarà Navarro, Pau Gasol già sta pensando di starci o no, ci sono anche gli altri che hanno un po' di anni, quindi quella nazionale che ha vinto il mondiale juniores, non mi ricordo già di che anno, da quella nazionale, quel gruppo, a quella generazione hanno tirato tutti questi successi, parlo di Spagna. Adesso tocca alla nostra generazione che ha vinto europeo, mondiale juniores, under 20, non so, 4 medaglie d'oro in fila, sono 7-8 giocatori nella nazionale di oggi, è proprio quello la chiave di andare avanti e portare avanti un progetto. Io li vedo molto bene, io li vedo con molto margine di miglioramento ancora, sicuramente andando nelle squadre forti dei campionati europei come non so Tepic a Panathinaikos, Veličković al Madrid, Tripković a Badalona, di non parlare dei Krstić NBA e tutto l'altro, gli aiuterà di crescere sia come giocatori ma soprattutto come persone, perché anche quello è un fatto importante, quindi secondo me il prossimo europeo è nostro. Senti, ma c'è un messaggio che era in questa chiave, dice: per Sasha, come fa la Serbia ad avere un serbatoio continuo nel settore giovanile da sempre? Il basket in Serbia è più seguito dai giovani che in Italia? Sì, è più seguito, ovviamente dipende anche dai successi in continuità, perché non so, ultimi 3 anni, 4 non avevamo la squadra così forte, anzi magari anche di più, dal 2002 non eravamo saliti sul podio ma non ci siamo neanche avvicinati. È stato un calo dovuto al cambio generazionale, una generazione che ormai ha fatto il suo, il 2002, come ultimi Moicani, Bodiroga, Divac insieme agli altri. E quindi dopo è arrivato questo buco. Ci ho avuto questi 4 anni dove i giovani hanno risposto alla grande. Devo dire una cosa, c'è una enorme differenza con i giovani, con i juniores. Da noi lavorano anche allenatori con una certa esperienza, con una certa età, da sempre, 50-60 anni, e trasmettono alcuni valori non solo di pallacanestro, insegnano la pallacanestro in una certa maniera. Non è che sempre lavora il giovane allenatore con squadre juniores, e quindi è un dato di fatto dove sempre escono i giocatori. Tanto è vero che tennis è stato fortissimo, con l'esplosione di Djokovic e due tenniste, Jankovic e Ivanovic, e ci sono un sacco di giovani che giocano tennis, però adesso ricominciamo di nuovo a pitturare i campi dietro i palazzi e ci siamo di nuovo lì dietro. No, comunque è determinante quello che dici, Sasha. Io è una cosa che sostengo da tantissimo, cioè abbiamo tanti allenatori di esperienza che magari sono a spasso, che magari sono ad aspettare una panchina, ma nessuno di questi allenatori di esperienza viene chiamato davvero per un settore giovanile. No, e poi non solo chiamato da lavorarci quotidianamente, ma anche di fare due chiacchiere, di organizzare incontro con una generazione, con i giovani nazionali, con non so che cosa, parlando, trasmettendo alcuno dei suoi valori, le sue opinioni, conoscendoli e conoscendosi, perché ci sono tantissime saggezze nelle teste della gente che ha esperienza, che ha vinto, che ha fatto, ma anche dei ex giocatori, ti parlo. Vedo pochissimi ex giocatori di alto livello che stanno dentro l'ambiente in Italia. E questo è un punto di domanda rivolto a tutte le società. Non sfruttarli solo come opinionisti televisivi, perché è solo una parte della pallacanestro, sì. La voce che commenta una partita, un foul, tutto quello. Però dentro di questi giocatori italiani, soprattutto che hanno vinto, che sono arrivati al, non so, medaglie d'oro dei europei o tutte quelle robe lì, c'è tanta esperienza. Qualità, esperienza che può essere trasmessa verso i più giovani, verso i più inesperti, verso tutto quello. Guardo sempre NBA, NFL, che organizzano questi tre giorni con rookies, dove tu stai lì e ascolti 1, 2, 3, 5 ex giocatori, uno che ha fatto la vita brutta, uno che si è drogato, poi è salito, terzo che è sempre stato la stella, quarto che è un insegnante, che tutti parlano dell'esperienza propria e puntano il dito sugli errori già fatti in prima persona o errori degli altri, però li dicono sempre dicendo alla fine. Vedo alcuni di voi che stanno dormendo dicendo intanto a me non mi passa, ho fatto la stessa cosa quando sono stato nel vostro posto e sono andato nel fango, quindi attenti, e quindi ti sveglia, cioè ti dà una scossa pazzesca. C'è un'etica del lavoro, però secondo me che è diversa assolutamente. Dove? In Serbia rispetto al nostro paese. Sì, ne abbiamo parlato anche la cultura del lavoro, ecco. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, no? Quando Sasha parlava del programma di educazione sportiva che c'è in Serbia. È chiaro che anche lì ci sono state delle difficoltà, perché quando è finita la vostra generazione c'è stata una generazione comunque forse di bambini un po' viziati, no? Che andavano subito in NBA a 19 anni, che non si allenavano, che non diventavano giocatori, che poi in nazionale mi viene in mente subito Radmanovic, ma ce ne sono tanti altri che poi in nazionale non sono riusciti a dare nulla. C'è voluta questa generazione nata dal Partizan, nata dal lavoro di Vujosevic, di Danilovic, eccetera eccetera, e sul Partizan, su questo gruppo del Partizan, poi Krstić, Perovic, eccetera eccetera eccetera, eccetera. Sì, si sono passati tutti, poi bisogna avere fame dei successi, e bisogna insegnare un'altra cosa che non tutti i giocatori che stanno in quel livello abbiano. Tutti hanno il talento, quello è sicuro, per giocare alla pallacanestro, hanno il fisico, tutto quello, però non basta per far di se stesso un campione. Una parola che uso tantissimo, che va a essere insegnata, deve essere insegnata anche da parte di chi l'ha fatto un gran uso, è l'ambizione. Nella parola ambizione di ciascuno di noi, non solo nella pallacanestro, ma nella vita, nell'ambizione, qual è la tua ambizione personale? Qual è, pensi che può essere l'ambizione di questo gruppo, di questa società, di questa squadra, di questo, cioè dove dobbiamo arrivare? Dove vuoi arrivare te? Da quella parola arrivano tante altre cose che uno possa fare di più di quello che non ha l'ambizione di arrivare primo, di vestire la maglia azzurra o della Serbia o quello che è, di vincere una coppa, di essere protagonista, di mettere ultimo tiro da tre, da due, quello che è. Quindi l'Italia secondo te in questo momento non è una squadra poco ambiziosa, anche tra gli altri problemi? Italia nazionale? Certo. Non ho visto solo una partita, mi limito di non commentare perché non ho visto, l'estate. Non l'hai visto perché non c'eravamo. Vorrà dire qualcosa. Lo so, vorrà dire che peccato perché adesso, sfruttando questo momento dove avete tre giocatori in NBA, dove ci sono comunque realtà come Siena, Milano che sta tornando con investimenti forti in Eurolega, bisogna anche saper sfruttare questo momento. Ripeto, mi mancano gli ex. Mancano tanto. Poi palla spicchi. Dunque torniamo, ripeto il contatto 800 24 00 24, numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666. Saluto un mio amico, è Angelo Costa, responsabile dello sport sul resto del basket, sul resto del Carlino di Bologna. Ciao Angelo. Ciao, buongiorno, un saluto enorme a Giorgevic che è sempre un piacere sentire. Ciao, ciao Angelo. Ciao. Come stai? Come va lì da quelle parti? Male, grazie. Molto male. Cos'è successo? No, vabbè, oggi è successo semplicemente che dovevano arrivare dei soldi per pagare una vecchia tranche di un mutuo del Palasport dove ha giocato anche Djordjevic. I soldi non sono arrivati, quindi il credito sportivo interromperà la convenzione, si farà dare i soldi dal comune e il comune deciderà quale sorte riservare alla Fortitudo. Tra le varie possibilità c'è anche quella del fallimento, cioè nel senso che chiede il fallimento perché non ha onorato dei debiti. Però questa è una delle possibilità, perché ovviamente se un comune deve avere dei soldi si ipotizza, magari non chiede il fallimento così non li ha del tutto, magari potrà cercare altre scelte. Di sicuro è un brutto colpo in una stagione, in un anno molto difficile per la Fortitudo, che comunque aveva ritrovato il sorriso, perché pur ripartendo dalla A dilettanti era tornato con uno spirito nuovo molto diverso, una buonissima squadra e soprattutto un buon clima, perché insomma, come sapete tutti, hanno quasi 4.000 abbonati. E questo è impressionante. Tutto nuovo salvo la dirigenza, che l'anno scorso insomma è sotto gli occhi di tutti, no? Ha fallito in maniera clamorosa e che quest'anno mi sembra non stia andando meglio, no Angelo? No, la situazione della Fortitudo non è questione del campionato che fai, puoi anche fare la dilettante, da lì ripartire e in tre anni arrivare alla finale scudetto. Non è quello il problema. Il problema è di un progetto che non esiste, non decolla quantomeno. No, il problema è che dalla finale scudetto sono finiti qui, nel senso che le parole non si sono mai sposate ai fatti, e l'ultima parola che è stata data proprio ieri pomeriggio dal patron Gilberto Sacrati, cioè ho pagato quello che dovevo, si è rivelata ancora una volta infondata, perché se si è arrivati a questo punto, comunque adesso vedremo che tipo di soluzioni si troveranno, perché sarebbe un peccato disperdere un patrimonio non solo storico ma a questo punto anche di pubblico, perché ripeto, avere una platea di 4.000 persone in A dilettanti non è da tutti, ecco. Non lo è di sicuro. Ma io ho telefonato per fare l'ascoltatore. Fai l'ascoltatore allora. Poi però voglio sentire Djordjevic sulla Fortitudo, perché quella maglietta lui ce l'ha ancora addosso. Ma Djordjevic ha tanti amici a Bologna e credo anche che sia venuto già a vedere questa Fortitudo, perché comunque Djordjevic è ancora uno della Fortitudo. Io ho ascoltato l'analisi che ha fatto lui adesso, ha detto tante buonissime cose, ha parlato di cultura del lavoro, ha parlato di gruppo, ha parlato di utilizzo degli ex, eccetera. Ma lui che ha attraversato tutta la pallacanestro italiana, da quando gli stranieri erano pochi a quando gli italiani il numero spropositato, chiedo, ha un'idea, una formula per trovare un po' di spazio ai giocatori italiani, che secondo me non è vero che non ci sono, ma mancano soltanto di opportunità? Ma traduciamo queste tue parole in mancano le opportunità, c'è qualcuno che gli deve dare l'opportunità, e c'è sopra di quello che gli deve dare l'opportunità uno che non gli deve mettere la pressione dopo una o l'altra partita persa o partita giocata male o sotto le aspettative da quel giovane lì. I giovani non possono imparare la pallacanestro stando in panchina a 22, 23, quando noi decidiamo che non sono più giovani, adesso diciamo adesso gioca. No, il giovane deve imparare giocando. Quindi deve stare sul campo. Ho visto la prima partita della Fortitudo con un grandissimo piacere, sono tornato lì perché lì ho fatto 2 anni più belli della mia carriera sportiva dal punto di vista personale, veramente ho giocato la miglior pallacanestro mia, ho ricevuto, sono maturato come giocatore e lì mi ha aiutato tantissimo quell'ambiente che non è solo nel palazzo ma fuori, l'ambiente tra la gente, il sorriso, la F stampata sulle facce di tutti o la V, perché è proprio quello che un cestista vuole. La Bologna è una grandissima città per gli atleti con extra qualità è un po' brutta, con quelli che non hanno la qualità e stanno lì perché sono molto esigenti e sanno molto di pallacanestro. Quello che mi è piaciuto è il ritorno sulle radici Fortitudo. La vera Fortitudo è quella che si è visto prima giornata, tutti in piedi, vincendo di 2, vincendo di 10, tutti in piedi, mi è venuto la pelle d'oca anche adesso a applaudire una squadra di lottatori, una squadra anche della gente esperta, una squadra che lotta per andare su nonostante tutto, e quello è che i giocatori sicuramente si sono messi insieme al loro staff e ai dirigenti a fare una promessa a tutti, se i soldi o quei problemi che ci sono, se non li riguardano, loro devono pensare solamente in giocare al pallacanestro nonostante i problemi che possono arrivare, perché quello vuole la gente Fortitudo da loro. E secondo me qualsiasi giocatore che mette la casacca Fortitudo se lo deve all'ambiente, perché una volta quando ti fanno quel coro lì, la gente in quella maniera lì, tu lo devi alla Fortitudo 110% di tuo impegno. Io sempre dico, le difficoltà si possono trovare, il cammino è diverso, la montagna non è mai in salita o non è mai in discesa, ci sono le rocce dappertutto, quindi anche questo bisogna guardare come una roccia che può essere scavalcata insieme con tutti, con aiuto della gente, con aiuto del comune sicuramente, che riconoscerà questo difficile momento di una squadra storica e non la lascerà sfondare. Io sono sicuro che troveranno un prolungamento di questo credito, che non si deve pagare fino al 2020 ma fino al 2030 o 40, quindi alleggerire un po' le rate annuali, perché solo così potrebbe aiutare alla dirigenza di adesso o quelli che magari verranno dopo, di programmare e fare una cosa sensata. Da dove bisogna partire e dai urli di quella gente e quello che si trasmette sul campo, perché lì nella Fortitudo chi non è almeno 10% miglior giocatore di quello che veramente è non ha spazio lì, e quella è la verità, perché sai, per giocare la pallacanestro di altissimo livello ci vogliono gli attributi, e gli attributi è la perfetta piazza di metterli in mostra. Angelo, sì, abbiamo trovato il presidente. Abbiamo trovato presidente? Certo, no, perché non so, chiedilo a lui. Su quale panchina? No, non deve fare, lui deve andare, lui deve fare come minimo il presidente. Chiedilo a lui, è qua. Sasha. Non sento bene. Non sente quello che non vuol sentire. No, lascia stare. Cioè, non è la giornata. Qua c'è il sole, il clima... Sì. Piccola California a Milano, quindi Angelo, ci teniamo aggiornati. Comunque, eh? Ti ringrazio per il pensiero. La Vunera come sta invece? Ma la Vunera ha problemi di playmaker, perché anche di lunghi, secondo me. No, problemi di playmaker immediati, perché si è fatto male Copone, anche il ragazzino Maroschini che ogni tanto gli dava ciliatolo e si è fatto male. Problemi di lunghi, sa, questi lunghi leggeri. La Vunera è una squadra che secondo me è nata molto bene, perché io ho una grande stima di Lardo, e come le squadre di Lardo hanno bisogno di tempo per fare, diciamo, la loro strada, però ha già una caratteristica: prende la partita e non la molla, e questo già qualcosa. Un campionato così aiuta parecchio, però sai, io non mi aspetto, purtroppo sono abbastanza scettico, sento dire che Siena si è rinforzata, secondo me si sono indebolite le altre facendo una serie di rivoluzioni che faranno per ulteriore tempo, sì, per cementare i gruppi, poi dopo quando finalmente cominceranno a funzionare magari cominceranno anche a fare qualche cambio, quindi sono d'accordo. Esatto. Sono d'accordo. È quello che diceva prima Sale, cioè quando parlava del Partizan eccetera, il Partizan aveva un gruppo buonissimo di giocatori, è andato tempo loro di sbagliare, gli ha fatto fare l'Eurolega, lascia stare che avessero un grande allenatore come Vujosic, però hanno fatto tutto questo cammino nel tempo e adesso loro si trovano secondi in Europa con la prospettiva di vincere presto qualcosa di importante a livello mondiale. Purtroppo, ripeto, il giocatore che nessuno riesce a comprare sul mercato si chiama pazienza. No, ma io solo faccio una domanda, una mia opinione personale da ex giocatore, che mi permetto di dire. Un giovane fino a 18 anni sa tutto della pallacanestro, ha già capito tutto, è stato allenato nelle società buone, ha fatto dei campionati juniores di qua, di là, quindi della pallacanestro, della tattica e della tecnica sua sa già tutto. Dipende dal suo corpo, dal suo atletismo, se gioca o no, dipende anche da chi lo dà l'opportunità di star lì. Però siccome è un gioco collettivo, anche mettendo uno che non è l'altezza, però lo sarà fra un anno o due, e lo sappiamo perché vediamo che questo sarà un giocatore, puoi nascondere le sue debolezze con gli altri quattro forti che saranno pronti, spiegandogli che questo gioca, fa degli errori, però lo lasciamo fare degli errori perché l'anno prossimo non li farà o li farà meno. Tra due anni sarà lui il leader a 20 anni della società. Mi ricordo sempre la Bologna di quando io giocavo, della Fortitudo, di quella squadra giovane di Bellinelli, Mancinelli e con Baso, con Baso, esatto, Repescia e anche Smodis all'epoca non era veterano, quindi era quello, proprio l'entusiasmo di giovane come l'esperienza del vecchio, cioè non, però senza i giovani, senza quell'entusiasmo che si trasmette ogni giorno con i sorrisi, scherzi in spogliatoio, fuori, le storie, storielle, la loro voglia di vivere e tutto, non ti può dare nessun giocatore che ormai ha passato, ha fatto di tutto, 30-33 anni, poi gli allenamenti li fa o un po' con, no, con esperienza, un po' con gestione personale e tutto quello. Invece i giovani sono quelli che portano un ambiente verso lassù, e quindi se guardiamo il Partizan tu devi capire che c'è una rosa di non solo di 12 ma anche di 16 giocatori presi tutti proprio così, ultimi quattro che non li conoscete neanche, ma saranno già protagonisti quest'anno nell'Eurolega. Perché? Perché si vede che c'hanno talento, adesso stanno lavorando sul loro personale, sul loro fisico, e gli stanno insegnando di essere uomini e giocatori da Eurolega, da nazionale, sì, di amare la maglietta una o l'altra, quindi è un lavoro quotidiano che poi li mettono in campo, perché solo in campo tu puoi diventare un giocatore, guardando gli altri tu non diventerai mai un giocatore, diventerai uno bravo a stare seduto, dimmi Angelo. Se no io e te saremmo da NBA, a forza di guardare. A voglia, grazie Angelo, a presto, un abbraccio. Grazie ad Angelo Costa. Palla spicchi. Un messaggio abbastanza pertinente sui discorsi che stavamo facendo, ripeto, 349-238-6666, sono tantissimi messaggi, magari poi Flavio Suarez ti terrà il conto. Telefonate 800-24-0024, numero verde. Il messaggio che volevo leggere è questo, da girare a Sasha. Mettiamocelo in testa, noi non abbiamo i giovani serbi. Tolto Melli e forse Renzi non c'è molto. Aggiungo una cosa piccola, no? Sì. I nostri giovani non hanno la testa dei giovani serbi. Questa era la mia piccola aggiunta. non so, questo è sempre, sono le opinioni personali, non conosco tutti i giovani quindi non posso parlare, però ho visto la qualità, ho visto dei giovani in campo e mi farebbe piacere vederli sempre di più. Anche con la testa si lavora, dipende chi lavora con loro, magari mettendo qualche serbo che lavori con loro non sarebbe neanche sbagliato. Io ho portato qui un allenatore mio vice nel primo anno, Milan Minic, no? Che è stato storico allenatore di Olympiacos, vice allenatore di Ivkovic, anche nella nostra nazionale quando vincevamo, capo scout, tutto quello, allenatore di tante squadre. E adesso fa quello che faceva con me, fa con a CSKA. E quello non è stato riconosciuto, non gli è stato offerto il prolungamento di fare proprio questo, di organizzare tutto l'ambiente giovanile, di fargli capire come ci si allena, sacrifica, quante ore, come deve pensare, trasmettere quello della Serbia, perché è il classico prodotto serbo, ossessionato, single, ossessionato, sposato con la pallacanestro, sa tutto di tutti, scrive, c'ha i suoi programmi, software per il scouting, c'ha le sue cose, sue manie, a volte è difficile, abbiamo litigato, abbiamo discusso tanto, però nel questo scambio di opinione, in queste diversità, uno cresce, uno prende una cosa buona, una vede una cosa brutta, tutto quello, vede la pallacanestro con gli altri occhi, non sempre gli stessi, perché la vostra pallacanestro in questo momento c'ha una impronta, togliendo Siena c'ha una impronta di come si gioca pallacanestro in Italia, che è quella lì, che è diversa da quella che si gioca in Spagna, e Spagna vediamo dov'è, vince in finale di 20, so com'è la sensazione vincendo in finale di 20, perché mi è capitato anche a me, e lo so da dove arriva quello. Arriva da un campionato straforte, la competizione con i migliori, dal lavoro con i giovani, tantissimo lavoro quotidiano, soprattutto mattutino, non solo due ore che vado a casa, ma mai lasciare il campo senza fare tre o quattro serie di 8 o 10, chi può fare anche di più, tiri di tre messi in fila. Quindi provate a farlo una serie così e poi andate a casa, poi vedete come si migliora. Era il mio discorso sempre con i giocatori quando allenavo. Dicevo, non vedo nessuno, meno Buleri e Gallinari, che rimangono ad allenarsi dopo allenamento e fanno le sue cose personali. Io rimango, i miei vicini allenatori rimangono, ma vedo tutti che scappano via. Anche quelli che tiravano male tiri liberi o facevano, non so, fatica di un coso di tecnico o dell'altro. Lì è il miglioramento, lì è la cosa dove si fa. È un'ora e mezzo, due, quello che sceglie l'allenatore, di allenarsi la squadra, tattica e tutto quello. Ma dopo arriva quello che bisogna che tu ci dai. Sì, deve venire da te. Partendo poi, dalla tua ambizione, quello che capisci che puoi dare per la squadra. E lì una cosa che Partizan, se venite lì, vedete tutti i giocatori che finito l'allenamento lo sanno che gli aspetta, dipende quello che deve fare. Trippic deve mettere 5 volte 10 tiri da 3 in fila e può andare a casa. Mm. Ogni allenamento è il nostro miglior tiratore. Chiaro. Non segna tanto, però è legato un po' alla sua personalità e come bravo ragazzo. Però ti dico, è ognuno si mette a fare la cosa dove può migliorare e si può migliorare ogni giorno. Se tu non c'hai questa voglia qua, ma sei lì solo per passare... Un'altra cosa che mi permetti di dire, che l'italiano è la cosa in Italia è quella: l'estate voi perdete il contatto con i giocatori, con la squadra, con tutto, perché vanno tutti a casa, sono tanti stranieri, 8 su 10 non so che cosa, o non sono di questa città e tutto quello. Quando finisce la ultima partita, via tutti, aereo, come se la puzzola fosse passata in spogliatoio, sono tutti aereo, andiamo via e tutti a casa, e ci troviamo il 15 di agosto e perdi controllo su questo giocatore, che magari ce l'hai anche sotto contratto, su quello che deve fare, sull'individuale, sulla cosa, sul miglioramento, su tutto quello, perché non li vedi, non li controlli. E tutte le squadre, quelle che cambiano 8-9 giocatori. Il problema è quello, Sasha, perché sai che perdete estate, perdete 3 mesi magari, sì, di quelle squadre che sono uscite, che hanno finito il campionato, 3 mesi di un lavoro straordinario. Lì deve essere impostato da parte della società, da parte dell'allenatore, per come adesso vanno via e non tornano, capito? Perché sono vedi Milano quest'anno, l'altro giorno abbiamo sentito Minucci, no? Venerdì scorso diceva: avversario principale Milano, mi piace molto Bologna, mi piace un po' meno Roma. A me la Virtus sinceramente non piace così tanto. Milano, tempo che trova il passo, ha cambiato tutta la squadra. L'anno scorso la stella era Vitali, no? Il giocatore, l'uomo franchigia, Vitali, preso, bocciato dopo una stagione, impostata, tra l'altro. Sì, esatto. Impostata, e anche a lui stesso è pesato questa cosa. Esatto. Perché Milano come ambiente pesa. Vediamo anche Buleri 3 anni fa. Certo, Buleri 3 anni fa, Buleri tutt'oggi, no? Che è andato a Treviso, ha avuto quella parentesi Treviso, ora è tornato, ma credo che non farà molto altro se non coreografia in questa stagione di Milano. Dipende dal ruolo, quello che gli hanno disegnato. Se lui accetta quel ruolo lì e se è contento su quello, e se il suo allenatore è contento, allora è quello. Perché Buleri giocatore non si discute, te lo dico io. Sì, no, ma sono d'accordo. Assolutamente no. Però vedi, anche quest'anno Milano cambia tutto. Siena gioca la prima partita, vince di 40 con Napoli. Tempo 2 mesi avrà già vinto la regular season a mani basse. Poi, come dicevi tu prima, insomma, quando le squadre cominceranno a formarsi, Siena sarà già scappata. Sarà già scappata e sarà difficile andarla a prendere, non solo in regular season, ma anche in prospettiva playoff, anche in prospettiva Coppa Italia. Sai, Siena quello che sta facendo lo sai meglio di me, che ha ogni giocatore valido, sono 2 anni più 1 legati ai obiettivi, Pianigiani e Minucci stanno sempre insieme lavorando loro due, decidendo loro due da anni, quindi è veramente non facile, una responsabilità enorme sulle loro spalle, però stanno lì. cioè Pianigiani, ho letto le interviste dove dice: io l'estate non vado via, io vivo la pallacanestro tutta l'estate, e proprio parlo di estate, parlo di questa cosa qua. Se l'uomo numero uno di una società fa questo, lui si aspetta di tutti gli uomini sotto di lui, che sono soprattutto i giocatori e anche i suoi collaboratori, staff, medici, tutto quello, di far lo stesso, perché questo vuol dire lavorare per una società di vertice Serie A che vuol vincere. Sì, sì. Questa è una cosa che deve essere impostata, deve essere, questo è un sacrificio enorme che tutti lo devono capire, perché estate è cruciale. Già, ma non dico ad aprile, già stai, devi costruire, ma anche prima, la squadra e l'ambiente e la mentalità per l'anno prossimo. Perché se perdi tre mesi, ricominci sempre da zero, dai sorrisi, da siamo tutti amici, non siamo amici, finché ci conosciamo, non ci conosciamo. Passa il tempo, ognuno entra nelle sue problematiche personali o no, nelle sue cose buone o meno buone, e lì si perde questo. Per quello qualcuno ha detto, gli americani all'epoca erano due, no? E c'era il nucleo di, non importa se sono italiani o erano italiani, però era il nucleo, era sempre lì, il nucleo che ti aspettava ad agosto, e tu ti devi adattare a questo nucleo. Sì, sì, sì, io sempre metto l'esempio, tu lo sai, l'esempio del Milan negli anni passati, generazionalmente Baresi da Costa Curta, Costa Curta da Maldini da Gattuso, Gattuso da Ambrosini a Pirlo, e ciascuno entrava in quell'ambiente dove deve diventare del Milan. Chi non diventa il Milan è pesce fuori dell'acqua, sì, come sì, per esempio Ronaldinho in questo momento. E Siena è così. Siena è così, esattamente. Però è la forza del proprio società che ti mette impronte subito addosso a un giocatore. Top, qua si fa in due ore, capisci tutto. Non puoi portare tu e le tue cose che hai portato da lì. No, tu ti devi adattare assolutamente in fretta alla società. Però la società deve mettere queste cose in chiaro dal giorno meno uno. Grazie Sasha. Okay. Torni, eh? Torno. Se no ti vengo a prendere a casa. Ma sono qua. O al Parco Sempione. Io sono lì, guarda, panchina 4, non troppo lontano da... Sì. Grazie Sasha Giorgis, grazie a Flavio Suarez, Tornella Migliaccio in redazione, Carmelo Loricelli in regia. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio dalle 5 alle 6.